E la giostra continua a girare col suo fardello di morte. E la giostra gira, gira. Credi che non ci ho pensato a non pensare in negativo, ma vivo in un mondo che fa schifo. In fondo ci provo gusto a deturpare i tuoi sogni, strappare ogni tua lacrima strappando i tuoi occhi. Sono la paura che dilaga nella tua città fantasma. Pugnalerò il tuo cuore e non mi fermo al primo basta. L'amore l'ho rinchiuso nel cassetto e da bravi mi lascio le chiavi. Se no io le getto come un lupo che spava, guardando la sua vittima come uno che scava per seppellire la sua vita. Ma ti presto la pala, tu fatti la cava, che stasera una serata giusta, una serata critica. Il mio cuore non lo sento ormai, ha smesso di battere. Sei una fossa comune ed è pieno di vipere. Ti dovresti uccidere, mi viene da ridere qui. In questo vivere è andato a farsi fottere. Ho la rabbia che mi assale, devo darmi una mossa. Pugnalerò il tuo cuore, non mi fermo al primo passa. Ho la rabbia che mi assale, devo darmi una mossa. Pugnalerò il tuo cuore, non mi fermo al primo passa. Piccolo sognavo una vita tranquilla, poi crescendo ho capito che il mondo è una finta, è come un film. Sì, sono io che lo scrivo, tutti attori con parte da cui. Allora faccio io il cattivo. È come il sangue che schizza quando ti tagli le vene, come la luna che brilla quando il male si vede, quando schiaccia la testa, la faccia. Tolgo organi dal corpo con la forza delle braccia. Sì, che sto tranquillo, ne resto in balia, è come un'autopsia. Ma se vivo è senza anestesia. Via i pensieri di amare o di amanti, ucciderò ogni angelo che mi passa davanti. No, che non si smette, riducimi a fette. Non sei tagliato per l'hip hop, allora prendi le lamette. No, che si riflette, fa il meglio per te. Un rimedio a squartatore in giro, mi chiamano Jack. Qua è tutta storia, come gli infami che spacco i loro nomi in memoria. Tra un emisfero e l'altro, sono il tuo troppo ossigeno che espande come olio. Rimarrò a vedere fino a che non esplode il tuo cranio. Ho la rabbia che mi assale, devo darmi una mossa. Pugnalerò il tuo cuore, non mi fermo al primo passa. Ho la rabbia che mi assale, devo darmi una mossa. Pugnalerò il tuo cuore, non mi fermo al primo passa. Quando hai perso tutto non hai più nulla da perdere. La rabbia che ti infuoca il corpo e ti riduce in cenere. Credere nella felicità prossima, ma è una lupa tossica che soffoca il tuo essere. Per me è più controbattere, ribattere o sbattere. Ti nascoli dietro maschere per vincere il malessere. Se l'amore ti stupisce, colpisce e ferisce, non capisce che finisce quando iniziano le tenebre. Cammini in una valle paludo se è troppo buio, e ti risvegli con la testa a terra guardando il tuo boia. Voglia di un'esistenza troppo spoglia, rimarrai fermo immobile mentre ti tira le cuoia. E la rabbia che mi assale, devo darmi una mossa. Fumo un'altra sigaretta aspettando che mi passa. Mi prudono le mani, non le metto mai in tasca. Tutti sti fatti strani mi fa scoppiare la testa. Ho la rabbia che mi assale, devo darmi una mossa.